finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Due 44 minuti primi, le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Mercoledì 10 di gennaio 2018. Anche stavolta siamo riusciti ad azzeccare l'anno, ormai. Potrebbe essere che non lo sbaglieremo mai più. Almeno per un annetto. Bene, bene, ci siamo, quindi. Quindi sintonizzate e sintonizzati sulla radio. E con la radio. La radio che dal 1977 vola libera nell'etere. Poi vedremo e capiremo anche perché questo vola e perché questo libera. E lo fa grazie a tutte e tutti voi che sostenete la radio a vario titolo e in diverse maniere con i vostri contributi, non ultimo il contributo economico. In quanto Radio Onda Rossa è una radio autogestita che e non c'ha introiti diversi da quelli delle sottoscrizioni di ascoltatori e ascoltatrici che pervengono alla radio in varie forme. C'è una paginetta sul sito www.ondarossa.info, andando su sottoscrivi sarà possibile leggere e scegliere qual è la forma che vi è più facile per sostenere la radio. Ce n'è una facilissima che ci piacerebbe che voi mettiate in atto, che è quella di venire qua, non proprio in radio, va benissimo anche venire in radio, venire qui a San Lorenzo sabato prossimo. Il 13 di gennaio. Perché come avrete già ascoltato dallo spot, ci starà Teatro Musica Perror al nuovo Cinema Palazzo, quindi a Piazza dei Sanniti 9A, con una lista di artisti, attori, musicisti, eccetera, che vi andremo a leggere magari più avanti. Che danno così il loro contributo alla radio, cioè animando questa iniziativa di sottoscrizione per la radio stessa. Quindi un ringraziamento a tutti questi artisti, attori, attrici, eccetera, eccetera. Un ringraziamento al nuovo Cinema Palazzo che collabora e ci aiuta in questa serata a sostegno della radio. Abbiamo già dato il sito www.ondarossa.info, è il contatto telematico della radio web. Veniamo un altro, la casella di posta elettronica della redazione della radio, Onda Rossa, @ondarossa.info. e ancora che serve per le vostre comunicazioni alla radio stessa, per gli insulti al sottoscritto e le vostre proposte di ascolto. Vale la email che non dimentichiamo mai di ricordarvi, 25oclock@ondarossa.info, 25oclock 25 scritto a numero. Vediamo un altro numeretto importantissimo, 6180401, che è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma San Lollo, via dei Volsci 56, che è appunto conto corrente postale della radio. E poi un altro numero così dal 1977, 06 491750, il contatto telefonico della radio. E si inizia così. Take your soul to Hamel, take it to the captain. Take your soul to Hamel, take it to the captain. And tell him I'm gone, tell him I'm gone. Now I don't want no more cornbread and molasses. I don't want no cornbread and molasses. It hurts my pride, man, it hurts my pride. So take the soul hammer, man, take it to the captain. Yes, take the soul hammer, man, take it to the captain. And tell him I'm gone, man, tell him I'm gone. If he asked you, was I running? Man, if he asked you, was I running? You can tell him I was flying. Man, you can tell him I was flying. So take the soul of hammer, man, take it to the captain. Yes, take the soul of hammer, man, take it to the captain. And tell him I'm gone, man, tell him I'm gone. Now if he asked you, was I running? Yes, if he asked you, was I running? You can tell him I was flying. Man, you can tell him I was flying. So take the soul of hammer, man, take it to the captain. Yes, take the soul of hammer, man, tell it to the captain. And tell him I was gone, man, tell him I'm gone. Now if he asked you, was I laughing? Man, if he asked you, was I laughing? You can tell him I was crying, tell him I was crying. So take the solar hammer, man, take it to the captain. Yes, take your soul hammer, man, take it to the captain. And tell him I'm gone, man, tell him I'm gone. Now I don't want no more ball bean and cabbage. I don't want no ball bean and cabbage. It hurts my pride, man, it hurts my pride. So take your solar hammer, man, take it to the captain. Yes, take your solar hammer, or take it to the captain. Yes, and I'm gone, man, and I'm gone. Now tell him I'm gone, tell him I'm gone. So tell him I'm gone, tell him I'm gone. Allora, eccoci qua in diretta. Siamo abituati a leggere così in maniera abbastanza sbrigativa e alle volte un po' sterile i comunicati e le comunicazioni che riguardano la radio e le sue iniziative. Nella fattispecie l'iniziativa di Scarceranda, questa sera abbiamo deciso di farla con un compagno con una voce ben conosciuta su queste frequenze. Ciao, pronto? Ciao. Sei? Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascolta. E ci proviamo pure a sfondare così per una vena anticarceraria. Le ore forse più brutte che si passano quando si sta dentro, no? Quelle, ma sono tutte brutte ovviamente, però non so, forse quelle della sera sono le peggiori, quando si rimane un po' soli con se stessi, insomma. E certo. Allora ci siamo, insomma, c'è una locandina qui davanti ai nostri occhi che ricorda appunto che ormai da parecchio tempo è uscita la scarceranda 018, dovremmo essere alla 18ª edizione pure, se non vado errato, magari correggimi se sbaglio, della scarceranda. Ecco, così volevo trarre anche con l'occasione di una delle tante presentazioni che abbiamo fatto e che ci sarà appunto domani allo Ieti, volevo cogliere l'occasione con te per fare un po' pure un bilancio di questi anni di scarceranda e così cosa abbiamo imparato, cosa abbiamo saputo trasmettere attraverso questa agenda appunto che da tanti anni pubblichiamo come Odio il carcere, Onda Rossa. Insomma, ha preso un po' una dimensione a sé stante la scarceranda. Ma la domanda è veramente, diciamo, interessante, perché appunto siamo quasi al ventennio. In effetti il primo numero fu del 99, quindi sono 19 anni, comunque, quindi ci avviciniamo al ventennio di scarceranda. E noi abbiamo fatto l'agenda, proprio potevamo fare un bollettino, un opuscolo, come altre situazioni anticarcerarie facevano in tutta Italia. Noi abbiamo puntato sull'agenda proprio perché l'agenda è quell'aggeggio che si tiene giornalmente sotto mano per segnare gli appuntamenti, il telefono, le cose da fare, eccetera. E quindi noi abbiamo pensato che proponendo in mano alle persone un'agenda fatta a caruccia, con dei testi, con delle poesie, con dei disegni, però potesse ricordare che c'è il carcere c'è tutti i giorni, e come dicevi tu, in ogni ora della giornata uno potrebbe fare un pensierino e dire come si sta dentro a quest'ora, in questo momento. E allora, se è la mattina il carcerato bestemmia perché si interrompe la vita del sogno, quel momento in cui sfugge alla terribile bruttura della galera e sogna, e poi il risveglio, che è sempre rumoroso perché è la battitura, no? Si battono le sbarre, le porte che sbattono, e quindi maledice il giorno nuovo, cosa che tutti gli altri esseri umani che stanno fuori invece in genere benedicono, cioè comunque sono contenti quando arriva un nuovo giorno in carcere, specie se una magari una bella giornata di primavera, insomma, che uno magari poi dopo va a lavorare, però per l'intanto assapori quei 30 secondi di libertà, insomma, che ci sono concessi. E infatti, e lì invece no, lì è che il primo risveglio è che ti piombano in cella 4-5 secondo il livello di pericolosità di guardie, una che batte con un pezzo di ferro sulle sbarre di ferro, quindi fa un suono di inferno, qualcuno sbatte anche la porta che è anch'essa di ferro, e quindi vieni risvegliato in una maniera per niente piacevole. In più ti rendi conto, perché nel momento del sogno probabilmente te l'hai dimenticato, sicuramente, e ripiombi in questo inferno spaventoso. E quindi vabbè, noi abbiamo c'è da fare un ragionamento, adesso lo buttiamo lì, poi casomai lo riprenderemo, certo, per rifletterci più a fondo. In effetti noi quando abbiamo fatto questa, appunto il 99, il 2000, c'era un periodo, un interesse abbastanza vasto di settori di movimento sul problema del carcere, della reclusione in generale, della repressione in generale, cioè si facevano assemblee cittadine, si discuteva, eccetera. E quindi questo strumento diventò il punto, diciamo, di interlocuzione tra la radio, che faceva tante trasmissioni sul carcere più scarceranda, e questi settori di movimento che si interessavano del carcere. E lì nacque pure infatti l'appuntamento del 31 sotto Re Bibbia per salutare appunto i detenuti e le detenute che stanno lì dentro. Poi però c'è stato un cambiamento, io appunto stavo riflettendo proprio in questi giorni, c'è stato un cambiamento perché vedendo anche il 31 le persone fisicamente che vengono tutti gli anni, no? Non che sono cambiate, certo. Sono cambiate, certo. E in qualche modo diciamo c'è un aspetto positivo e un altro diciamo meno positivo, diciamo il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Cioè l'aspetto positivo è diciamo prima quello positivo, che io ho visto quest'anno proprio tantissimi ragazzi e ragazze, ma giovanissimi, nemmeno ventenni, sì. Che stanno affrontando il tema carcere con una gioiosità, perché scrivono, hanno corrispondenze con chi sta dentro, che quelli che stanno dentro gli mandano poesie, loro riflettono, fanno degli opuscoletti su queste poesie, cioè hanno preso l'aspetto più bello, forse meno rancoroso. È chiaro che il carcere fa arrabbiare, bestemmiare, diventare nervoso, è ovvio. L'hanno costruito apposta. No? Però però prenderlo così, questo fatto mi ha entusiasmato, dico. Cioè, in realtà invece poi l'aspetto negativo è che abbiamo perso gran parte diciamo della compagneria tosta, cioè di quei compagni che facevano appunto, si interessavano di carcere molto e che invece perché presi probabilmente da altri impegni politici meno si occupano di carcere, oppure perché non lo so il perché, appunto non posso dare io la risposta, o diciamo, comunque non si può dare in 5 minuti, insomma si possono provare a stilare così delle ipotesi, però ecco certo. Probabilmente appunto una dei motivi sicuramente è che sono stati presi da mille impegni, dalla casa, la repressione che è incalza sempre più, no? E questo è sotto gli occhi di tutti. E forse perché, non so, diciamo, non c'è più quella speranza che qualche tempo fa, che 20 anni fa c'era, di poter diciamo cambiare qualcosa del carcere, che si chiedevano indulti, amnistia, cioè poi non è successo niente di tutto questo e allora probabilmente si è affievolita quell'entusiasmo, e invece sono sorti queste nuovissime generazioni, cioè il livello di, cioè, l'hai visto pure tu, no? Il livello, diciamo, l'età media, il 31 era molto giovane, giovanissimi ragazzini e ragazzine, cosa bellissima tra l'altro, perché anche con uno spirito diverso, e che quindi è promettente che qualcosa riusciremo a fare prossimamente. Forse dovremmo cambiare anche il nostro linguaggio nei confronti del carcere, non per smettere di criticarlo, anzi, però si può criticare in tanti modi, tanti modi. E quindi questa è una prima riflessione così. Dentro che succede dentro? Dentro le cose non vanno bene. Non vanno bene perché, scusami, appunto, se faccio un inciso. Questo ventennio di tante speranze, tutte frustrate, tutte naufragate, dentro e fuori rispetto al carcere, chiaramente hanno lasciato il segno negativo anche dentro. Dentro i detenuti sono così depressi, poco attivi, perché quando fanno qualche piccola iniziativa, una battitura, uno sciopero della fame, piccole cose, non trovano una rispondenza all'esterno. Rispondenza che prima si manifestava, trovavano sotto le finestre, quindi vedevano dietro le mura pezzi di società, qualche decina, centinaia di ragazzi e ragazze che solidarizzavano con loro. Questo ecco non l'hanno visto, e questo ha fatto calare anche la loro voglia di protesta, di continuare le proteste, quindi siamo a un livello un po' basso. E poi ci sono tutte le promesse fatte, ogni tanto fanno promesse, adesso l'ultima è fatta da Orlando che vuole riformare tutto il regolamento penitenziario, per ora solo parole e forse rimarranno tali. E quindi la frustrazione di speranze che sono state messe lì, buttate lì, in effetti lasciano male, lasciano il vuoto. Questa è una prima riflessione che poi proponiamo a tutti di continuarla. E infatti a questo servono anche le presentazioni, non tanto per raccontare che cosa è scarceranda, quello lo facciamo e lo faremo, però essendoci proprio per altre persone, noi chiediamo proprio che facciano domande, dicano la loro, quelli che vengono alle presentazioni. E che genere, cioè rispetto a 20 anni fa, quando appunto credo che forse non 20 anni fa esattamente, però insomma è tanti anni che comunque ti proponi proprio anche personalmente così nelle presentazioni, questa sensibilità verso il carcere, la visione carceraria riflette un po' quello che dicevi prima rispetto all'oggi, dicevo, cioè sono cambiate le generazioni e è cambiato anche probabilmente probabilmente, come accennavi, l'approccio all'istituzione carceraria. Sì, secondo me sì. Cioè, le domande sono le stesse, le domande, i ragionamenti che si fanno in queste presentazioni sono cambiati in questi 20 anni? Abbastanza sono cambiate, perché anche queste sono sensazioni, perché non c'è un modo, diciamo, scientifico, che se non col tempo capire veramente qual è stato il cambiamento. La percezione che ho io è che, appunto, chiaramente nessuno è d'accordo, nessuno ti dice che è d'accordo col carcere, chiaramente, no? Non solo tra i compagni e le compagne, ma anche tra la gente cosiddetta per bene, insomma, no, intelligente, perché è ovvio. Però c'è una mancanza di alternativa. Cioè, se ti dicono sì, vabbè, il carcere fa schifo, bisognerebbe anche abolirlo, però poi, ecco, questo non vale solo per il carcere, vale anche per altre situazioni, no? Mettiamo il lavoro, poniamo il lavoro, no? Poniamo tante altre realtà. Ecco, ti dicono, ma poi che facciamo? Ecco, questo è come autoflagellarsi, ciascuno e ciascuna che pensa così si autoflagella, per dire io non sono io, insieme agli altri non siamo capaci di trovare un'alternativa al presente, a quello che abbiamo sotto mano. Ecco, questa è un po' una sensazione brutta, lo dico, però la dico perché così potrebbe aiutare a riflettere. Certo, bisogna no, essere non... fare gli avvocati del diavolo e mettere i piedi nel piatto, insomma, non è che ci si può nascondere quelle che sono le problematiche vere, che sono problematiche poi che magari in una situazione tipo quando andiamo a raccontare di questi ragionamenti, di queste tematiche che ormai affrontiamo da 20 anni e abbiamo cercato così di sviscerare, Scarceranda ad esempio portava con sé per molti anni quasi sempre un opuscolo proprio con degli scritti, con delle elucubrazioni, dei pensieri, analisi, cioè, sì, esatto, delle analisi che cercavano di affrontare il problema in tutte queste dimensioni e dinamiche di cui accennavi prima, appunto, ma sono tantissime. Questa è un po' poi la seconda domanda, insomma, che ti farò. Però ecco, forse comprendere a pieno e avere a pieno una mentalità di tipo anticarceriale, o definiamola così, è proprio quella che non te la fai più questa domanda. Diventa una domanda retorica, probabilmente. Qual è l'alternativa a cosa? Quello che è, appunto, l'altra cosa che ti volevo dire, ogni anno più o meno, appunto, proprio perché la tematica è talmente poi innervata, poi il mondo del carcere in realtà, che è un aspetto separato, proprio artificiosamente separato dal resto della società, invece in realtà è innervato strettamente con quelle che sono le dinamiche sociali, no, che viviamo tutti i giorni fuori dal carcere, ecco, e quindi parlare del carcere, poi pian pianino abbiamo imparato a capire che significa parlare di tutto, di tutta la società, un po' del mondo che c'è oggi. E questo ci ha portato, appunto, a tutta questa quantità di ragionamenti che abbiamo fatto anche attraverso Scarceranda, attraverso il quaderno di Scarceranda, eccetera. Più o meno ogni anno abbiamo affrontato, abbiamo messo l'accento su un elemento, no, di questo mondo enorme di ipotesi che abbiamo fatto. Ti volevo chiedere, appunto, quest'anno in particolare, di che cosa, così scendiamo anche alla presentazione di domani, su che cosa abbiamo messo l'accento nel 2018, nella Scarceranda, presentazione del Scarceranda 2018, rispetto alla tematica della repressione del carcere? Ciò che si che, proprio per cogliere quella, come dire, quello spaesamento che c'è un po' tra tutti i compagni e le compagne, anche tra le persone che vorrebbero, a cui non piace il presente e che vorrebbero cambiarlo, però sono un po' così spaesati perché non abbiamo chiaro cosa no, offrire in cambio di questo, cosa cercare di raggiungere, ecco. Ecco, proprio per questo il tema è un po', è un tema che riguarda tutti, non solo, appunto, chi si occupa di carcere da sempre, anche una persona che ci sta ascoltando adesso, che casomai ascolta la trasmissione per la piacere della musica. Ecco, la domanda è questa: è cambiato qualcosa, e che cosa, in questi 20 anni circa, oppure parliamo del carcere, oppure il carcere diciamo sempre più diventa, si assuefa, cioè diventa come dire, convive con le persone che stanno fuori, cioè si accetta, ecco, un elemento carcere immanente, diciamo, c'è, cioè, perché ci deve essere. Questa è la domanda che a sto punto io mi rivolgo a tutti e tutte, e quindi penso che anche domani, se qualcuno viene, mi farebbe piacere che rispondesse. Che cosa è cambiato? Io posso dare i dati, se volete vi dico tutti i dati, quanti erano 20 anni fa, come è cambiato l'andamento dei dati, l'andamento dei suicidi, cosa ancora grave che continua a permanere, il su e giù delle, no, delle leggi cosiddette svuota carceri, no? Le leggi, appunto, dal 2012 si era raggiunto il picco, quasi 70.000, un punto mai visto nella storia italiana. Allora la Corte Europea ha sanzionato lo Stato italiano, eccetera eccetera, hanno fatto leggi svuota carceri e 15.000 sono scesi quindi nel 2015, quindi 2 anni fa, era scesa, adesso è ripresa a salire, sta salendo vertiginosamente di nuovo la presenza in carcere, quindi di nuovo sovraffollamento, cioè praticamente sembra che siamo, come dire, in un circolo vizioso che non si riesce a trovare il capo, ecco, il bundle della matassa potrebbe essere il titolo di questa, qual è il bundle della matassa? Perché si sono fatte tentative, anche settori, chiamiamoli progressisti, anche se ormai il termine è un po', rispetto al quadro politico, è abbastanza non appropriato, però ci stanno settori, per esempio Antigone, altre persone che si danno da fare per migliorare un po' il carcere, ecco, quindi le attività ci stanno di alcuni, più i carcerati che hanno fatto ancora e continuano a fare proteste, ecco, però poi si fa un passo avanti e se ne fanno subito due indietro. Allora, non riusciamo a trovare il bando della matassa? Pensiamo che sia cambiato in meglio, in peggio, oppure appunto il carcere continua a girare come se fosse come fosse un satellite di questa terra, no? Perché non ce lo togliamo da torno. Questa è un po' una domanda, domanda aperta, ovviamente, insomma, è chiaro. Non c'è una risposta, almeno una sola, insomma, c'ha tante soluzioni. Esatto. Un'equazione con tante soluzioni che è di difficile risoluzione pure. Va bene. Però probabilmente poi, come dicevi tu, sono d'accordo, io su questo sono d'accordissimo e cerco sempre di battere, il carcere non è altro che un aspetto di questa società, anche se è tenuto separato volontariamente, le mura alte, no? Il fatto che non si sa niente di quello che succede là dentro, tutti questi meccanismi l'hanno fatta come zona di emarginazione, perché la legge dice così, tu sei cattivo, non rispetti la legge, non rispetti trasgredisci la legge, io ti separo dalla società, ti metti in margine, ti metto in un posto diverso, è più o meno simile al campo di concentramento, ovviamente senza poi massacrare, però è quello il concetto, anche se sta soltanto a 2 chilometri dal centro della città, però è sempre emarginato. Questo è l'elemento, però poi questa separatezza in realtà non la è, perché quando noi analizziamo il carcere, levando le escrescenze che sono proprie di un sistema punitivo, è lo stesso meccanismo della società. Per esempio la premialità, il carcere si fonda sulla premialità, sul rapporto non premio castigo, tu fai il bravo, ti do uno sconto di pena, tu fai il cattivo, ti do sia le punizioni, celle, eccetera, sia un prolungamento di pena. Quindi questa cosa è il meccanismo che guida tutta la società, va dall'asilo, da quando siamo in asilo, fino al lavoro, sempre c'è, no? E quindi rappresenta la società. Il fatto che se tu individualmente cerchi di fare vedere che sei buono e bravo, prenderai dei premi, se tu ti unisci gli altri e collettivamente organizzi proteste, tu diventi ancora il cattivo tra i cattivi e quindi di nuovo punito. I meccanismi sono quelli, non è un'altra cosa, non è che fa parte di un'altra filosofia. Il carcere è consustanziale. E allo stesso tempo mi viene in mente così una possibile osservazione, un po' magari così catastrofistica, se vuoi, però ecco, com'era quella faccenda, distruggere il carcere prima che il carcere distrugga noi, nel senso che poi appunto questa modalità carceraria, che appunto questa modalità della nostra società che nel carcere trova i suoi aspetti più estremi, poi in realtà potrebbe diventare il laboratorio di una società futura, e questa è una cosa che è estremamente spaventosa, sì, sì. Ecco. Certo. Però guarda, hai detto una cosa che in realtà cioè non è peregrina, una riflessione, perché tu pensa, io mi diletto, visto che mi occupo prevalentemente di questo problema del caso, di leggere a volte anche testi antichi del 700, del 600, di vari studiosi, sia critici e sia quelli che invece volevano il carcere. Beh, una delle, soprattutto diciamo del mondo anglosassone, in Inghilterra, il carcere veniva visto come come sperimentazione di quello che poi bisognerebbe fare nella società. Era visto proprio così, poi non l'hanno, cioè volevano dire, dice, noi facciamo, poi era un po' impresentabile questi, come cosa, e hanno mitigato i termini, insomma, cioè sì, sarebbe carino. Ci hanno messo poi il fatto della rieducazione, quella è stata una cosa che lo capisco, io capisco i costituenti, perché gente che si è fatta la galera, quella fascista, che non era sicuramente una passeggiata, che hanno combattuto, per carità, tutte brave persone, e hanno probabilmente avrebbero voluto scrivere sulla Costituzione aboliamo le galere, non l'hanno potuto fare perché erano anche loro incatenati, non più nel fascismo ma in un sistema capitalistico che ormai doveva fare certe cose, ma avrebbero voluto scrivere appunto aboliamo le galere, non l'hanno potuto scrivere, allora hanno detto il carcere non deve punire, deve rieducare, però era una cosa un po' così, una cosa filosofica, tanto per mettersi a posto la coscienza, poverelli, li capisco, però avrebbero dovuto ricominciare la resistenza armata, era un po' difficile probabilmente, quindi però non, nessuno crede che il carcere rieduchi, non fa di tutto tranne che rieducare, non può rieducare un fatto che ti fa uscire fuori con la bile che te esce anche dalle orecchie, no? È ovvio, non può rieducare, questo no? Lo diciamo noi, ma lo dicono penso anche tutti i numeri, tutte le statistiche che piacciono tanto, certo, a loro poi, no? Insomma, quindi certo. Basta il numero secco, no? Quello della recidiva. La recidiva è colui che entro 5 anni, quando ha finito la pena, esce, entro 5 anni rifà lo stesso reato per cui è andato in galera. Così quello si chiama recidivo. Bene, il Ministero dice che il tasso di recidività è il 72%, quindi quasi tutti, è molto alto, no? Quasi tutti quelli che escono dal carcere ritornano a fare, perché già dovrebbe sancire il fallimento, certo. I motivi sono tanti, anche di carattere sociale, no? Se uno non c'era da mangiare prima non c'era manco dopo, anzi dopo ancora peggio, quindi ecco, però questa cosa continua a esistere ed avere, trovare anche il consenso, come dicevamo prima, trova il consenso, comincia a diventare una nostra appendice, nostra, non dico solo del potere, sì certo, i colpevoli sono i governi, i parlamenti a cui diciamo sempre parolacce, e giustamente, però poi c'è pure una nostra responsabilità, nostra, dico, l'uomo della strada, la donna della strada, cioè quelli che viviamo in questa città e non so anche nelle altre, cioè noi questa appendice ce la portiamo appresso. Certo. Non riusciamo a scrollarcela, nemmeno mentalmente, nemmeno diciamo ipoteticamente, e quindi ovviamente non ce la facciamo materialmente. Benissimo, allora vogliamo dare, allora innanzitutto prendiamo spunto di queste poche note, così per magari darci un appuntamento più là, se ce la faremo insomma in diretta, in cui uniremo, come abbiamo fatto già per tante altre voci e per tante altre esperienze che vivono qui dentro la radio, insomma, sotto forma di trasmissione, magari già ce l'eravamo accennato, magari più in là darò il compito a te di preparare un 5, 6, 7 tracce musicali che possano condire insomma quanto diciamo, o viceversa, almeno dal punto di vista mio, condire con le parole quello che riusciamo a dire attraverso la musica, e magari ci diamo senz'altro appuntamento a quando avremo modo di preparare questo esperimento a 25 o'clock. Invece l'appuntamento di domani ce lo vuoi ricordare? Allora, è molto semplice, alle 19, quindi l'ora comoda perché domani è giornata lavorativa, alle 19 è al Pigneto, lo Ieti è un bar libreria che si trova a via Pesaro, angolo via Perugia, si vede facilmente, proprio nella parte vicino a Via L'Aquila, insomma, no, Pigneto, la parte del Pigneto che sta sopra, via Perugia, angolo via Pesaro, alle 19. Ci sarai te e ci sarà? Ci sarà anche Valerio Bindi, che sapete tutti, è quello che è un grande illustratore, grande, pure la parte grafica, diciamo, esatto. Tante parti. Quindi faremo questo racconto, e soprattutto mi interesserà molto se ci stanno non solo domande, ma anche interventi delle persone, ognuno dice la propria, perché non è questo un terreno limitato agli esperti, è tutt'altro, deve essere proprio patrimonio di tutti e tutte parlare del carcere, quindi questo vorremmo. Per cui ci vediamo domani sera lì e va bene. Chi viene è benvenuto. E ci diamo appuntamenti. Io purtroppo ho un'altra privazione della libertà personale, per cui devo lavorare fino a tarda notte, quindi non potrò esserci, ve lo dico già da adesso, certo, però certo. Mi ha fatto piacere comunque in qualche maniera dare il contributo per questa iniziativa. Ok, ti ringrazio, quella purtroppo che hai tu domani è la seconda galera, come diceva qualcuno, tra fabbriche e carcere, tra l'altro sono nate contemporaneamente, proprio gli stessi giorni di 400 anni fa, 500 anni fa, quindi sono molto simili, anche se poi oggi non c'è più la fabbrica fumosa, sporca, però siamo lì, sempre sottrazione di libertà è anche quello, no? Va benissimo, allora dai, ci diamo appuntamento e d'accordo. Ci aggiorniamo senz'altro. D'accordo, buona ti serata, saluto, ciao, un ringraziamento, ciao. Ciao, ciao. Bene, ringraziamo il compagno che ogni mercoledì, come oggi, alle 15 di ogni mercoledì, di un mercoledì sì, un mercoledì no, però insomma, cura la trasmissione da tanti anni della radio La Conta. Quindi diamo appuntamento a tutti e a tutti domani allo Ieti, al Pigneto, per la presentazione di Scarceranda, peraltro presentazioni che al 10 di gennaio riceviamo ancora inviti a fare in varie situazioni, in vari posti. E dalla presentazione di Scarceranda e dalle tematiche carcerarie da approfondire, da studiare, a piena voce, a occhi aperti fino a farli lacrimare, battersi il petto come gorilla e poi tornare a respirare, è ovvio che istituzioni su cui occorre interrogarci 5 minuti ancora, passa veloce come un in maniera sempre più profonda e anche continua, perché appunto il carcere, come la società, muta il proprio aspetto ma non la propria sostanza. Questa è la nostra musica, punto interrogativo, questa è la furia. Invece, come dicono loro, questa è la furia, quindi vi diamo invece un altro appuntamento, quello a mercoledì 17 prossimo, sempre in questo orario e a queste frequenze, quando avremo ospite appunto la Furia con il loro nuovo lavoro uscito a fine 2017 La via dei Ronin. Microfoni che squarciano la notte, gole urlano, bruciano come bombe, voi volete ritornare. E questa è a piena voce che vi rimandiamo da capo, sentitevela tutta bene. Minuti primi, Radio Onda Rossa. Questo è Ed Planet Heart. Anno 2006. questa era Chicken tratta da Only in America. Wake up, sveglia! Chicken, Rage Against the Machine, oibò, ricordate? E se vi ricordate non siete proprio dei giovanotti o delle giovanotte. Quando un vinile girava e il mixer era messo da un'altra parte, e da queste parti giravano altre facce oltre ovviamente a quella del sottoscritto, un poco più un poco meno. Fate un po' come volete, comunque. Comunque 06491750, il telefono della radio. Sabato 13 gennaio 2018, nuovo Cinema Palazzo, Piazza dei Sanni di 9A. Teatro e musica, max 10 minuti a testa con Giovan Bartolo Botta, Circo Mare Teatro, Alessandro Corazzi più Erika Muraca, Ciro Carlo Fico, Valerio Gatto Bonanni, Donatella May, Daniele Monachella, Paolo Pescenanna, Simone Nebbia, Edo Onofri, Marco Palladini, Blas Rocarei, Paola Tarantino, Teatro dell'Assedio, Nea Tomei, Ariel Vincenti ed Emilio Stella. E non sappiamo se, o anzi mi sembra che ci sia aggiunto si sia aggiunto nelle ultime ore qualcun altro, altra quarantennale di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza dal 24 maggio 1977. 40 anni Ror, Nuovo Cinema Palazzo, sabato 13. E come da un po' di tempo a questa parte, 25 O'Clock tace per un po'. E questa volta abbiamo a che fare con le ali della libertà, dato che questo è l'argomento che abbiamo trattato questa sera. Film del 1995, Frank Darabont, di cui ricorderete senz'altro Tim Robbins e Morgan Freeman protagonisti. Wake up! Voglio tornare a casa, voglio la mia mamma, voglio.

moglie mi diceva sempre che ero un uomo difficile. Un libro chiuso. Si lamentava continuamente. Era bellissima. Dio, quanto l'amavo. Solo che non riuscivo a dimostrarglielo. L'ho uccisa io, Red. Non ho premuto il grilletto, ma l'ho tenuta lontana. Ed è per questo che è morta, per colpa mia, per come sono io. Sì, ma non puoi considerarti un assassino. Un cattivo marito, forse. Puoi sentirti in colpa se vuoi, ma non hai premuto il grilletto. No, infatti. È stato un altro a ammazzarla. E sono finito io qui dentro. Questione di sfortuna. Già. La sfortuna vola nell'aria. E ogni tanto piomba su qualcuno. È toccato a me quella volta. Mi trovavo lì e mi ha beccato. Quello che non mi aspettavo è che la tempesta potesse durare così a lungo. Tu credi che uscirai mai da qui? Io? Sì. Un giorno, quando avrò una lunga barba bianca e qualche rotella fuori uso nel cervello, mi lasceranno andare. Sì. Un giorno, quando avrò una lunga barba bianca e qualche rotella fuori uso nel cervello, mi lasceranno andare. Sì. Un giorno, quando avrò una lunga barba bianca e qualche rotella fuori uso nel cervello, mi lasceranno andare. Sai, io vedrei a zio Ateneo. Sì, cosa? Zio Ateneo. È nel Messico. Un piccolo porto sull'Oceano Pacifico. Sai che dicono del Pacifico dei messicani? No. Dicono che non ha memoria. È lì che voglio vivere il resto della mia vita. In un posto caldo, senza memoria. Voglio aprire un piccolo hotel davanti alla spiaggia, prendere una vecchia barca senza valore e rimetterla a nuovo e farla usare ai clienti che vogliono pescare. Zio Ateneo. In un posto così ho bisogno di uno a cui piace far felice gli altri. Non credo che ci riuscirei fuori di qui. Insomma, qui ho passato gran parte della mia vita. Sono istituzionalizzato, proprio come Chris. Secondo me ti sono. No, io non. Vedi? Qui dentro io sono quello che ti procura le cose, ma fuori basta andare in giro per negozi. Non è vero che hai bisogno di me. Qui dentro io sono quello che ti procura le cose, ma fuori basta andare in giro per negozi. Che ti procura le cose, ma fuori basta andare in giro per negozi. Non è vero che hai bisogno di me. Non c'è una magia. Chi ci sa convivere con una cosa così grande? A me non fa. Non ho ucciso mia moglie, non ho ucciso il suo marito. E qualunque errore abbia commesso, ho pagato più del dovuto. L'albergo, la barca. Non sto più dentro a questo. Secondo me tu così ti fai del male. Questo è un sogno irrealizzato. Secondo me tu così ti fai del male. Questo è un sogno irrealizzato. Insomma, il Messico è più lontano della Luna. Tu sei qui, così stanno le cose. Sì, hai ragione. È così. cose stanno così. Il Messico è lontano e io sono qui dentro. Cose stanno così. Il Messico è lontano e io sono qui dentro. Le cose stanno così. Il Messico è lontano e io sono qui dentro. Alla fine la scelta è molto semplice, davvero. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. Intende mandare i suoi figli? No, A questo non ci credo. È andata proprio così, quant'è vero in Dio. Deakins ha strabuzzato gli occhi, poi si è messo a ridere come uno scemo. E credetemi, ha dato la mano, eh? Ah, stronzata. Gli ha dato la mano. Te lo giuro. Stavo per svenire con un bel vestito, una cravatta e uno di quegli affari che parlano sulla scrivania. Sarebbe stato un perfetto signor Dufresne, vice direttore. Ti stai facendo un po' di amici, vero Andy? Perfetto signor Dufresne, vice direttore. Ti stai facendo un po' di amici, vero Andy? No, non li chiamerei amici, credo. Io sono solo un omicida che conosce il modo di fargli guadagnare un bel po' di soldi. Chiamerei amici, credo. Io sono solo un omicida che conosce il modo di fargli guadagnare un bel po' di soldi. Un giocattolo molto utile. Prendo un po' di amici, vero Andy? No, non li chiamerei amici, credo. Io sono solo un omicida che conosce il modo di fargli guadagnare un bel po' di soldi. Li chiamerei amici, credo. Io sono solo un omicida che conosce il modo di fargli guadagnare un bel po' di soldi. Li chiamerei amici, credo. Io sono solo un omicida che conosce il modo di fargli guadagnare un bel po' di soldi. Lei amici, credo. Io sono solo un omicida che conosce il modo di fargli guadagnare un bel po' di soldi. Un giocattolo molto utile. Ma almeno non stai più in lavanderia. Sì, ma potrei fare di meglio. Che ne direste se chiedessi di ampliare la biblioteca? Sì, ma potrei fare di meglio. Che ne direste se chiedessi di ampliare la biblioteca? Se devi chiedergli qualcosa, chiedigli un biliardo. Se chiedessi di ampliare la biblioteca. Se devi chiedergli qualcosa, chiedigli un biliardo. Di ampliare la biblioteca. Se devi chiedergli qualcosa, chiedigli un biliardo. Giusto. E come pensi di fare? Voglio dire, per avere degli altri libri, signor Dufresne, si può sapere? Chiederò dei fondi al direttore. Per avere degli altri libri, signor Dufresne, si può sapere? Chiederò dei fondi al direttore. Figliolo, sono cambiati 6 direttori da quando sono qui e ho imparato che esiste una legge immutabile e universale. Non c'è niente al mondo di più stretto del culo di quei figli di puttana quando vai a chiedergli dei soldi. Ho imparato che esiste una legge immutabile e universale. Non c'è niente al mondo di più stretto del culo di quei figli di puttana quando vai a chiedergli dei soldi. Abbiamo grossi problemi col bilancio. Ah, capisco. Magari potrei scrivere al Senato e chiedere i fondi direttamente a loro. Quei figli di puttana quando vai a chiedergli dei soldi. Abbiamo grossi problemi col bilancio. Ah, capisco. Gli dei soldi. Abbiamo grossi problemi col bilancio. Ah, capisco. Gli dei soldi. Abbiamo grossi problemi col bilancio. Ah, capisco. Magari potrei scrivere al Senato e chiedere i fondi direttamente a loro. E li conoscono solo 3 modi di spendere i soldi dei contribuenti quando si tratta di prigioni. Più mura, più celle, più guardie. Comunque dei contribuenti quando si tratta di prigioni. Più mura, più celle, più guardie. Comunque dei contribuenti quando si tratta di prigioni. Più mura, più celle, più guardie. Comunque io vorrei tentare col suo... Tratta di prigione. Più mura, più celle, più guardie. Comunque io vorrei tentare col suo permesso. Più mura, più celle, più guardie. Comunque io vorrei tentare col suo permesso. Più mura, più celle, più guardie. Comunque io vorrei tentare col suo permesso. Scrivo... Più mura, più celle, più guardie. Comunque io vorrei tentare col suo permesso. Scriverò ogni settimana, non possono ignorarmi di te. Sì che possono. Ma tu scrivi pure le tue lettere, se ti fa piacere. E io le farò spedire. Ma punto di dei contribuenti quando si tratta di prigioni. Più mura, più celle, più guardie. Comunque io vorrei tentare col suo permesso. Fondi direttamente a loro. E le conoscono solo 3 modi di spendere i soldi dei contribuenti quando si tratta di prigioni. Più mura, più celle, più guardie. Comunque io vorrei tentare col suo permesso. Più mura, più celle, più guardie. Comunque io vorrei tentare col suo permesso. Più mura, più celle, più guardie. Comunque io vorrei tentare col suo permesso. Scriverò ogni settimana, non possono ignorarmi di te. Sì che possono. Ma tu scrivi pure le tue lettere, se ti fa piacere. E io le farò spedire, va bene? Così Andy cominciò a scrivere una lettera alla settimana, come aveva detto. E come aveva detto Norton, non ricevette alcuna risposta. Vieni. Vieni a vedere che cazzo di casino è combinato con quelle lettere. Vieni a vedere che cazzo di casino è combinato con quelle lettere. Vieni a vedere che cazzo di casino è combinato con quelle lettere. Che cos'è? Me lo devi dire tu, stronzo, è indirizzata a te. Tieni. Egregio signor alle sue insistenti richieste è stato deciso di stanziare la cifra acclusa per l'ampliamento della biblioteca. Sono 200 dollari. Inoltre, la biblioteca locale ha generosamente messo a disposizione un certo numero di libri e di dischi usati. Questo dovrebbe esserle sufficiente. Possiamo ritenere chiusa la questione. Per favore, la smetta di inviarci lettere. Prima che torni il direttore, tutta questa roba deve sparire. Sì, signore. Bel colpo, Andy. Certo. Mi ci sono voluti solo 6 anni. D'ora in cui scriverò 2 lettere alla settimana. Sei abbastanza pazzo da farlo. Ma ora è meglio che porti via tutto, come ha detto il capo. Io ho un lavoro da sbrigare. E per quando torno, non deve esserci più niente, chiaro? Certo. Mi ci sono voluti solo 6 anni. D'ora in cui scriverò 2 lettere alla settimana, invece di una. Sei abbastanza pazzo da farlo. Ma ora è meglio che porti via tutto, come ha detto il capo. Bel colpo, Andy. Ci sono voluti solo 6 anni. D'ora in poi scriverò 2 lettere alla settimana invece di una. Sei abbastanza pazzo da farlo. Ma ora è meglio che porti via tutto, come ha detto il capo. Io ho un lavoro da sbrigare. Certo. Mi ci sono voluti solo 6 anni. D'ora in poi scriverò 2 lettere alla settimana invece di una. Certo. Mi ci sono voluti solo 6 anni. D'ora in poi scriverò 2 lettere alla settimana invece di una. 6 anni. Bel colpo, Andy. Sei abbastanza pazzo da farlo. Ma ora è meglio che porti via tutto, come ha detto il capo. Io ho un lavoro da sbrigare. E per quando torno, non deve esserci più niente, chiaro? Ancora oggi non so che cosa dicessero quelle due donne che cantavano. E a dire la verità non lo voglio sapere. Ci sono cose che non devono essere spiegate. Mi piace pensare che l'argomento fosse una cosa così bella da non poter essere espressa con delle semplici parole. Quelle voci si libravano nell'aria a un'altezza che nessuno di noi aveva mai osato sognare. Era come se un uccello meraviglioso fosse volato via dalla grande gabbia in cui eravamo, facendola dissolvere nell'aria. E per un brevissimo istante, tutti gli uomini di Shawshank si sentirono liberi. Cosa che fece alquanto incazzare il direttore. Apri la porta! Apri questa porta! Di presto, ti ho detto di aprire! Spegni quell'affare! Te lo dico per l'ultima volta, di presto, spegnilo subito! Andy si fece due settimane nel buco per quello scherzetto. In piedi! Ehi, guarda chi c'è! Maestro! Ehi! Non potevi suonare qualcosa di meglio? Tipo Hank Williams? Mi hanno fermato prima che potessi raccogliere le dediche. Certo, però che due settimane nel buco. Sono volate. Stronzate, nel buco i giorni non passano mai. Già, una settimana nel buco è come un anno. Puoi dirlo forse. C'era il signor Mozart a tenermi compagnia. Perché? Quelle ti hanno fatto portare il giradischi là dentro. Ce l'avevo qui. È qui. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto. A voi la musica non fa lo stesso effetto. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto. Beh, quando ero giovane mi divertivo con l'armonica. Ma ho perso interesse. Qui dentro poi che senso ha? È proprio qui dentro che la musica ha senso. Serve per non dimenticare. Dimenticare? Sì, per non dimenticare che ci sono posti a questo mondo che non sono fatti di pietra e che c'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere. Sento un rumore. Ma di che parli? Di speranza. Ma di che parli? Di speranza. Ma di che parli? Di speranza. Ma di che parli? Di speranza. Ma di che parli? Di speranza. Ma di che parli? Di speranza. Ma di che parli? Di speranza. Di speranza. Mettitelo bene in testa. La speranza è una cosa pericolosa. La speranza può far impazzire un uomo. Cosa pericolosa? La speranza può far impazzire un uomo. La speranza è una cosa pericolosa. La speranza può far impazzire un uomo. Non c'è speranza qua dentro. Sarà meglio che ti ci abitui a questi.

41 minuti dopo la mezzanotte. Five O'Clock ha taciuto per un po'. Fatto perlare frasi sparse. Film del 1995, Le ali della libertà. Distorto. Is come la costa. E mentre scorrevano questi frame, the clubs, ci siamo preoccupati di mandare in onda Dalek Rouge, Dissia Plies, Deadverse Remix Version. Is come la poi il premio Scream, Trainspotting, dall'omonimo film The Unsane, Exterminator, Isis, In Fiction, Hurt, Else Winter, Giardini di Miro, The Beauty Tape Rider, Nitrada. Poi Roselux con cane e non luogo. E infine poco fa lo stato sociale, mi sono rotto il cazzo. For the ghost town. We used to dance and sing as the music. E adesso Code 9 e The Space Ape. Ghost Town. Is coming like a ghost. Questa è stata 25 O'Clock. Del 10/11 gennaio 2018. Quindi prima di andar via e di salutare tutti e tutte, ricordiamo le due iniziative di questa settimana. Oggi praticamente, giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 19, scarceranda 018. Presentata allo Yeti Libreria Caffè. Al Pigneto a Via Perugia 4. Poi sabato prossimo 40 ore nel quarantennale di Radio Onda Rossa dal 24 maggio 1977, libera da padroni e padrini politici ed economici. It's coming like a ghost town. Molti artisti, max 10 minuti a testa, non ve ne andiamo a elencare perché l'elenco è lungo e forse anche incompleto. Comunque gira lo spot in automatico. Appuntamento quindi a sabato prossimo alle ore 21. Nuovo Cinema Palazzo. It's coming like a ghost. Si riprende quindi dopo la notte passata con la compagna automatica Ario. Le sue repliche, le sue selezioni musicali con le 8 di domattina, quando ricomincerà con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali dalla città e dal resto del mondo. Alle 13 il giornale radio, alle 13.30 spazio comunicazione visionari, trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, poi si riprende alle 16 con Attica Blues oltre la Black Music, alle 17 le schiene del Soul. Dalle 18 alle 20 Mezzedes. Alle 20 lo spazio comunicazione, poi 20 e 23 uno spazio che dedicato al martedì autogestione femminista e lesbiche. Si riprende alle 23 con Apostasia. continuously lie, just claim can stay with them there. I cuginetti di Apostasia, Bella Fongis, Bella Paizo. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale. But continually fail when push come to shove. All them people who claim say charity begin at home, look on the state of your home. All them people who ignore blatant facts in order to maintain a order beneficial only unto themselves. All them fucking people who smiling at your face only because they want to see who they behind you. For all them people they don't want to see a man succeed. For all them people them want a man to pick up after them. For all them fucking people who feel sad because you not have what. E tutta un'altra serie di circostanze. For all them people them who close doors continually on people them. Costringono le persone ad avere costrizioni di libertà di tipo amministrativo, obblighi di firma, divieti di residenza, divieti di recarsi da questa o da quella parte, obblighi di residenza. È un dato comune, insomma, un sacco di roba che ci costringe a vivere forme di reclusione extracarceraria. A tutti i rinchiusi e le rinchiuse dentro i luoghi di detenzione per migranti. Bene, ci risentiamo mercoledì prossimo, ricordiamo La Furia qui negli studi della radio a presentare La Via dei Ronin. Bella a tutti e a tutte, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai. All them people whose only concern in life is to mine our problems.